النمل، le formiche. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. Ta-sin. Ecco i versetti del Corano e di un libro chiarissimo. Hudan wa bushra lil mu'minin. Guida e buona novella per i credenti. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Che assolvono all'orazione, pagano la decima e credono con fermezza all'altra vita. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Quanto a coloro che non credono nell'altra vita, facemmo sembrare belle le loro azioni, sì che procedessero alla cieca. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Appartiene a loro il peggiore dei castighi e nell'altra vita saranno i più grandi perdenti. وإنك لتلقى قال القرآن من لدن حكيم عليم. Certo, tu ricevi il Corano da parte di un saggio, un sapiente. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Ricorda quando Mosè disse alla sua famiglia: ho visto un fuoco, vi porterò notizie di esso o tornerò con un tizzone acceso affinché vi possiate riscaldare. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Quando vi giunse, fu chiamato: sia benedetto colui che è nel fuoco e chi è attorno ad esso, e gloria ad Allah, Signore del creato. Ya Musa, innahu ana Allahu l'Azizu l'Hakim. O Mosè, in verità io sono Allah, l'eccelso, il saggio. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. Ya Musa, la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun. Getta il tuo bastone. Quando lo vide contorcersi come fosse un serpente, volse le spalle, ma non tornò sui suoi passi. Non aver paura, Mosè. Gli inviati non hanno niente da temere nei miei confronti. Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Hanno da temere soltanto coloro che sono stati ingiusti. Ma per coloro che sostituiscono il male con il bene, in verità, io sono perdonatore, misericordioso. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إنهم كانوا قوما فاسقين. Infila la tua mano nell'apertura della tua tunica. La trarrai bianca senza male alcuno. È uno dei 9 segni destinati a Faraone e al suo popolo. Essi sono davvero un popolo di empi. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Quando poi giunsero loro i nostri segni evidenti, dissero: questa è magia evidente. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Ingiusti e orgogliosi li negarono, anche se intimamente ne erano certi. Guarda cosa è accaduto ai corruttori. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Già demmo scienza a Davide e a Salomone. Dissero: lode ad Allah che ci ha concesso eccellenza su molti dei suoi servi credenti. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Salomone succedette a Davide e disse: o uomini, ci è stato insegnato il linguaggio degli uccelli e ci è stata data abbondanza di ogni cosa. Invero, questa è grazia evidente. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Furono riunite per Salomone le sue schiere di demoni, di uomini e di uccelli, e furono allineate in ranghi distinti. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Quando giunsero alla valle delle formiche, una formica disse: «O formiche, rientrate nelle vostre dimore, che non vi schiaccino inavvertitamente Salomone e le sue truppe». فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Salomone sorrise a queste sue parole e disse: «Concedi, mio Signore, di esserti grato per il favore che hai concesso a me, a mio padre e a mia madre, e concedimi di compiere il bene che tu gradisci, e per la tua misericordia fammi entrare tra i tuoi virtuosi servitori». Passò in rivista gli uccelli e disse: «Perché mai non vedo l'upupa? È forse tra gli assenti?» لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Le infliggerò un severo castigo o la sgozzerò, a meno che non adduca una valida scusa. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Ma non tardò ancora per molto. Disse: «Ho appreso qualcosa che tu non conosci. Ti porto notizie certe sui Saba». «Inni wajattu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim». Ho scoperto che una donna è loro regina, che è provvista di ogni bene e che possiede un trono magnifico. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Lo scorta a prosternarsi insieme col suo popolo davanti al sole invece che ad Allah. Satana ha reso belle le loro azioni agli occhi loro, li ha sviati dalla retta via e non hanno guida alcuna. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fis-samawati wal-ardi wa ya'lamu ma tukhfuna تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Perché mai non si prosternano dinanzi ad Allah, che svela ciò che è nascosto nei cieli e sulla terra, e che conosce quel che celate e quel che palesate? Allah la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Allah, non c'è Dio all'infuori di Lui, il Signore del trono immenso. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Disse Salomone: presto vedremo se hai detto la verità o se hai mentito. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Va con questa mia lettera e falla cadere su di loro. Mettiti poi in disparte e aspetta ciò che le sarà risposto. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Disse la regina: o notabili, mi è stata fatta pervenire una nobile lettera. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Giunge da Salomone, dice: in nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Non siate arroganti nei miei confronti e venite a me sottomessi ad Allah. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Disse: o notabili, datemi il vostro parere su questo affare. Non prendo mai una decisione a vostra insaputa. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Risposero: disponiamo di forza e temibile determinazione. La decisione spetta a te. Stabilisci dunque quello che vuoi ordinare. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Disse: in verità, quando i re penetrano in una città, la saccheggiano e riducono in miseria i più nobili dei suoi abitanti. È così che agiscono. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. Io gli invierò un dono e valuterò ciò che i messi riporteranno. فلما جاء سليمان قال أتمدونني يمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Quando giunsero presso Salomone, egli disse: Volete forse lusingarmi con le ricchezze? Ciò che Allah mi ha concesso è meglio di quello che ha concesso a voi. No, siete voi che vi gloriate del vostro dono. Irgi' ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukh لنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Ritornate dai vostri. Marceremo contro di loro con armate alle quali non potranno resistere e li scacceremo umiliati e miserabili. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Disse Salomone: O notabili, chi di voi mi porterà al suo trono prima che vengano a me sottomessi? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Un ifrit tra i demoni disse: Te lo porterò prima ancora che tu ti sia alzato dal tuo posto. Ne sono ben capace e son degno di fiducia. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Uno che aveva conoscenza del libro disse: Te lo porterò prima ancora che tu possa battere ciglio. Quando poi Salomone lo vide posarsi presso di sé, disse: Questo è parte della grazia del mio Signore per mettermi alla prova e vedere se sarò riconoscente o ingrato. Quanto a chi è riconoscente, lo è per se stesso. E chi è ingrato, sappia che il mio Signore basta a se stesso ed è generoso. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. E disse: Rendetele irriconoscibile il suo trono, vedremo se lo riconoscerà o se fa parte di coloro che non sono guidati. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Quando giunse, le fu detto: è questo il tuo trono? Rispose: sembrerebbe che lo sia. Disse Salomone: già ci fu data la scienza e già fummo sottomessi ad Allah. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Ciò che adorava all'infuori di Allah l'aveva distolta. Invero, faceva parte di un popolo miscredente. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب. Le fu detto: entra nel palazzo. Quando lo vide, credette che fosse un'acqua profonda e si scoprì le gambe. Allora Salomone disse: è un palazzo lastricato di cristallo. Disse quella: Signore, sono stata ingiusta nei miei stessi confronti. Mi sottometto con Salomone ad Allah, Signore dei mondi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Ai Samud inviammo il loro fratello Saleh. Disse: adorate Allah. Invece si divisero in due gruppi in discordia tra loro. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Disse: o popolo mio, perché volete affrettare il male piuttosto che il bene? Perché non chiedere il perdono ad Allah affinché vi usi misericordia? طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Dissero: in te e in coloro che sono con te vediamo un uccello di malaugurio. Disse: il vostro augurio dipende da Allah. Siete un popolo messo alla prova. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Nella città c'era una banda di 9 persone che spargevano corruzione sulla terra e non facevano alcun bene. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Dissero giurando fra loro in nome di Allah: attaccheremo di notte lui e la sua famiglia. Poi diremo a chi vorrà vendicarlo: non siamo stati testimoni dello sterminio della sua famiglia, davvero siamo sinceri. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Ordirono una trama e noi ordimmo una trama senza che se ne accorgessero. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Guarda cosa ne è stato della loro trama. Li facemmo perire insieme con tutto il loro popolo. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ecco le loro case in rovina a causa dei loro misfatti. Questo è certo un segno per la gente che ha conoscenza. E salvammo coloro che avevano creduto ed erano timorati. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. E ricorda Lot quando disse al suo popolo: vi darete la turpitudine pur riconoscendola? أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Vi accosterete agli uomini piuttosto che alle femmine per placare vostro desiderio? Siete davvero un popolo ignorante. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. La risposta del suo popolo fu solo: scacciate dalla vostra città la famiglia di Lot. È gente che pretende di essere pura. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. Lo salvammo insieme con la sua famiglia, eccetto sua moglie, per la quale decidemmo che fosse tra coloro che sarebbero stati annientati. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Facemmo scendere su di loro una pioggia orribile su coloro che erano stati invano avvertiti. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. Di, lode ad Allah e pace sui suoi servi che ha prescelti. È migliore Allah o quel che gli associano? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Egli è colui che ha creato i cieli e la terra, e dal cielo ha fatto scendere per voi un'acqua per mezzo della quale noi abbiamo fatto germogliare giardini rigogliosi, i cui alberi voi non sapreste far germogliare. Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? No, quella è gente che attribuisce eguali ad Allah. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل أكثرهم لا يعلمون. Non è lui che ha fatto della terra uno stabile rifugio, che vi ha fatto scorrere i fiumi, vi ha posto immobili montagne e stabilito una barriera tra le due acque? Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? No, la maggior parte di loro non sanno. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Non è lui che risponde quando l'affranto lo invoca, che libera dal male che ha fatto di voi luogotenenti sulla terra? Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? Quanto poco riflettete! يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. Non è lui che vi guida nelle tenebre della terra e del mare, colui che invia i venti, i nunzi della buona novella, che precedono la sua misericordia? Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? Allah è ben più alto di ciò che gli associano. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Non è lui che ha dato inizio alla creazione e la reitera? colui che vi nutre dal cielo e dalla terra? Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? Di, producete la vostra prova, se siete veridici. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Di, nessuno di coloro che sono nei cieli e sulla terra conosce l'invisibile, eccetto Allah, e non sanno quando saranno resuscitati. La loro conoscenza dell'altra vita è nulla. Sono in preda ai dubbi, sono del tutto ciechi in proposito. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. I miscredenti dicono: quando saremo polvere noi e i nostri avi, veramente saremo resuscitati? لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Già ci è stato promesso, a noi e ai nostri avi. Non sono che favole degli antichi. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Di, viaggiate sulla terra e considerate quale fu la sorte degli iniqui. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Non ti affliggere per loro, non essere angosciato per le loro trame. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dicono: quando si realizzerà questa promessa, se siete veridici? قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Di, forse parte di quel che volete affrettare è già imminente. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. In verità il tuo Signore è pieno di grazie per gli uomini, ma la maggior parte di loro non sono riconoscenti. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. In verità il tuo Signore conosce quello che cela nei loro petti e ciò che palesano. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. Non c'è nulla di occulto nel cielo e sulla terra che non sia in un libro chiarissimo. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Questo Corano narra ai figli di Israele la maggior parte delle cose sulle quali divergono. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Mentre è per i credenti guida e misericordia. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. In verità il tuo Signore giudicherà tra di loro col suo giudizio. Egli è l'eccelso, il saggio. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. Confida dunque in Allah, tu sei davvero nella verità chiarissima. Innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a'a idha wallaw mudbirin. Certo non puoi far sentire i morti e neppure far sentire ai sordi il richiamo quando fuggono voltando le spalle. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. E neppure potrai trarre i ciechi dal loro sviamento. Solo ti potrai far ascoltare da coloro che credono nei nostri segni e si sottomettono. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Quando il decreto cadrà loro addosso, faremo uscire per loro una bestia dalla terra. Essa proclamerà che gli uomini non erano convinti della verità dei nostri segni. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. In quel giorno riuniremo da ogni comunità una massa di coloro che tacciarono di menzogne i nostri segni e saranno divisi in schiere. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. Quando saranno colà, Allah dirà: avete tacciato di menzogna i miei segni senza neppure conoscerli? Che cosa dunque avete fatto? وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. Il decreto cadrà loro addosso, perché furono ingiusti e non parleranno più. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Non han forse visto che in verità abbiamo fatto la notte affinché riposino in essa e il giorno affinché vedano con chiarezza? In vero, questi sono segni per un popolo che crede. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. E nel giorno in cui sarà soffiato nella tromba, saranno atterriti tutti coloro che sono nei cieli e tutti coloro che sono sulla terra, eccetto coloro che Allah vorrà. Tutti torneranno a Lui, umiliandosi. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. E vedrai le montagne che ritieni immobili passare come fossero nuvole, opera di Allah che rende perfetta ogni cosa. Egli è ben informato di quello che fate. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun. Chi verrà con il bene avrà qualcosa ancora migliore. In quel giorno saranno al sicuro dal terrore. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. E coloro che verranno con il male avranno i volti gettati nel fuoco. Siete compensati diversamente da quel che avete operato? إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّي هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. In verità mi è stato solo ordinato di adorare il Signore di questa città, che egli ha resa inviolabile. A lui tutto appartiene e mi ha comandato di essere uno dei musulmani. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ. E di recitare il Corano. Chi segue la retta via lo fa a suo vantaggio, e dia chi si svia. Io non sono altro che uno degli ammonitori. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Di, la lode appartiene ad Allah. Presto vi farà vedere i suoi segni e li riconoscerete. Il tuo Signore non è incurante di quello che fate.